Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. La notizia delle dimissioni di Veltroni è stata, per me, la conferma che la sinistra non ha avuto il coraggio e non è mai stata nella posizione di poter elaborare un progetto serio o di prospettare una qualsivoglia alternativa. Troppi capitalisti nella sinistra. Non più un'idea sostenuta da un ceto, dagli operai, ormai disoccupati. È morta la lotta di classe. Nessuno più ne parla. Nessuno più parla di lotta al capitalismo, al consumismo sfrenato. Anzi, per tutti, sia a destra che a sinistra, la ricetta per l'economia è il rilancio dei consumi, anche se in veste verde. Gli stessi prodotti, le stesse auto, arredamenti, cellulari, ma con il filtro. La sinistra non ha osato proporre delle vere innovazioni di pensiero, coerenti con la sua natura, come ad esempio un limite alla ricchezza personale. A mio avviso, nessuno può essere più ricco di un comune, di una regione, di uno Stato. Hai accumulato 100 milioni? 200? 300? Basta. Sei ricco, sei arrivato. Tutto il resto deve essere ridistribuito alla comunità, sotto forma di lavoro finalizzato direttamente alla collettività e al suo bene. Cosa ben diversa dai lavori socialmente utili e gli ammortizzatori sociali. Consiglio a tutti di leggere gli scritti sull'economia di Ezra Pound, il quale affermava che l'economia capitalista è usuraia ed in preda a fortunati lestofanti, accecati dalla cupidigia, dall'avidità e dal desiderio di prevaricare sugli altri. La sinistra non ha avuto neanche la lucidità di definirsi classista o populista. Per la sinistra esistono persone di serie A e persone di serie B, o ritiene che indiscriminatamente tutti abbiano e debbano avere gli stessi diritti? La pensa allo stesso modo anche sui doveri? Certo che il solo anti-berlusconismo non può essere un'alternativa politica. E la gente lo ha capito. Claudio. Quesito da sinistra. Ma sono forse un atto di responsabilità le dimissioni di Veltroni in questo momento? Veltroni ha creato il PD in un'Italia governata da Prodi, contribuendo a mio avviso all'accelerazione della fine del governo Prodi. E ora lascia, a 2 mesi dalle elezioni, contribuendo all'esplosione del marasma. Mi sembra uno strano senso delle proprie responsabilità. Alberta. Quello che non capirò mai è come raffinati politici come Antonio Di Pietro o Pancio Pardi, con al seguito il PD, non abbiano ancora capito l'inutilità dei continui attacchi a Berlusconi. Non servono assolutamente a nulla. Sono anni che da quando sono all'opposizione sbraitano, mentre quando sono al governo non fanno nulla per potersi tenere la possibilità poi di polemizzare. Gli italiani sanno tutto di Berlusconi, ma continuano a votarlo. Quindi sarebbe ora di cambiare le priorità del loro fare opposizione, smetterla di essere sempre contro, di avere nell'anti-berlusconismo l'unico motivo d'unione. Sarebbe ora che cominciassero a proporre, ad essere pro qualcosa e non sempre contro qualcuno. Christian Carpi. Come era già successo per Prodi, anche adesso è ripreso il tam-tam sulle cause della caduta di Veltroni, che indubbiamente ci sono e sono tante. Ma la principale, quella che secondo me farà cadere tutti gli esponenti della sinistra, come Berlusconi ha giustamente ipotizzato, è Berlusconi stesso. Da quando è sceso in campo è stato come la calata degli unni, un Attila a tutto tondo, una forza inarrestabile e crescente che impedisce ogni forma di vita nell'ambito della sinistra. Discepolo di Craxi, dopo Tangentopoli, scavalcato il Rubicone, si è erto, insieme a molti esponenti della sinistra, a paladino inesorabile e spietato di ogni forma di sinistra esistente sul territorio italiano. E ci sta riuscendo. Per batterlo dovrebbe esistere un individuo altrettanto potente, determinato e furbo, un Ulisse che metta in atto una strategia diabolica e sopraffina che lo possa neutralizzare. Un sogno, una chimera irrealizzabile. Intanto, chi prenderà il posto di Veltroni potrebbe e dovrebbe attaccare il mostruoso avversario con le sue armi, armi che purtroppo non rientrano nel bagaglio della sinistra. Si dovrebbe partire da una premessa. Berlusconi rappresenta il sogno italiano e da qui giù a distribuire promesse di grandi cose, ponte sullo stretto, opere mega galattiche, sogni di gloria e di facili guadagni, evasioni fiscali e relativi paradisi, sberleffi e scherzetti. Cari compagni, pensateci. Silvia. Ho ascoltato l'intervento del senatore dell'Italia dei Valori, Pancio Pardi. Ovviamente il caso Mills era preso a paradigma del deterioramento del sistema democratico in Italia, del conformismo del sistema dell'informazione asservito al potere e altri ingredienti vetusti del pensare anti-berlusconiano. Notoriamente viviamo in un sistema in cui all'opposizione dell'onorevole Di Pietro non è concesso lo spazio per manifestare il proprio dissenso. La logica conclusione è che i sonanti successi del Cavaliere sono da ascriversi al suo strapotere mediatico e all'ignoranza e alla corruzione che dilaga tra la maggioranza degli italiani. Mi domando però, in quale altro paese un giudice come la Gandus, la cui militanza politica è acclarata dai suoi comportamenti, non verrebbe rimossa dal suo incarico per manifesto pregiudizio di quelli che sono i requisiti fondamentali della sua figura deontologica? In quale altro paese un procuratore della Repubblica riceve soldi, case, auto dai suoi inquisiti senza che ciò comprometta la sua carriera di magistrato prima e di politico poi? In quale paese un pool di magistrati come quello di Milano indaga e istruisce centinaia di inchieste solo ed unicamente per delegittimare il capo di una parte politica ritenuta avversa? A tal proposito ricordo che la prescrizione deve essere considerata per quello che è, ovvero un'assoluzione. La legge contempla che non è possibile indagare a tempo indeterminato su un individuo, ma trascorsi i tempi fisiologici, se l'inquirente non è riuscito a rendere credibili le accuse, l'inquisito è prosciolto. Da noi, invece, si ritiene l'istituto della prescrizione come una scappatoia per favorire i delinquenti. In quale paese, se i processi normali durano 5 anni, se l'inquisito si chiama Di Pietro, le inchieste durano 15 giorni? Sandro, Genova. A margine dei recenti fatti di cronaca, come il caso dello stupratore rumeno, il cui provvedimento di espulsione era stato annullato dal giudice onorario Mariangela Gentile, che non lo aveva ritenuto pericoloso, molti ora si chiedono se la figura del giudice onorario garantisca sufficienti standard di competenza e preparazione. La risposta purtroppo è, in generale, negativa. Si tratta di persone scelte in base a criteri non sempre trasparenti, fra diverse categorie professionali, non solo avvocati, ma anche pubblici dipendenti e carabinieri. Si tratta di un incarico per una persona dinamica e preparata, assai poco appetibile. È assolutamente precario e mal pagato e non conferisce neppure un reale prestigio professionale. La conseguenza immediata di ciò, sommata alla poca trasparenza dei criteri di selezione, è che le persone che ambiscono al posto mediamente sono di basso livello. Ciò nonostante, ai giudici onorari vengono affidati sempre maggiori incarichi, poiché il numero dei magistrati togati è ormai strutturalmente insufficiente al carico. Molte procure oggi sono di fatto mandate avanti dagli onorari. Probabilmente ciò comporta un aumento degli errori giudiziari. Non ho la minima idea se quello bolognese, al di là degli infausti effetti, fosse effettivamente un errore giudiziario, ma soprattutto spesso porta ad un'enorme perdita di tempo e di risorse. L'incompetenza porta infatti a fare processi inutili o a vanificarli dopo che sono giunti al termine. Porta a rendere vane le udienze perché non sono state fatte le notifiche richieste. Porta a chiamare testimoni che non possono essere sentiti perché devono essere rifatte le notifiche fatte nel posto sbagliato e così via. Una soluzione ci sarebbe: creare una magistratura di serie B alla quale affidare i processi meno rilevanti, ma prevedendo che ad essa si acceda tramite un concorso. Per rendere appetibile l'incarico, bisognerebbe renderlo a tempo indeterminato. Non sarebbe probabilmente necessario neppure pagare questi giudici più dell'attuale spesa sostenuta per gli onorari, perché molti giovani laureati in giurisprudenza, preparati, sarebbero disponibili a fare i magistrati per 1.500-2.000 euro al mese, pur di avere un lavoro a tempo indeterminato e pur di essere effettivamente inseriti nei ruoli della magistratura. Carlo, Rimini. Ho letto che per ricevere il rimborso delle spese elettorali per i partiti sarà sufficiente, d'ora in poi, superare il 2% dei voti. La proposta dei due senatori del PD è passata al Senato in prima lettura, con 252 voti a favore e 2 astensioni. Non so cosa ne pensiate, ma mi pare che la casta non si smentisca mai. 2 cose attirano la mia attenzione. La prima è che la votazione è stata plebiscitaria, come sempre accade quando la casta deve portare a casa dei soldi. La seconda è che la proposta è arrivata dal PD. E qui mi sono cadute le braccia. Andrea. Sono argentino e penso che le dichiarazioni fatte da Berlusconi sembrino semplicemente quello che sono. Ovvero una battuta delle sue, con chiaro riferimento al fatto che quello dei desaparecidos era comunque un dramma e una vera cosa deplorabile. Io sinceramente sono ancora arrabbiato invece con l'onorevole Di Pietro, quando disse a Berlusconi di essere proprio come i dittatori argentini. Lui sì, ha mancato di rispetto ai morti assassinati durante quel periodo. Enzo. A proposito della frase del cavaliere sui desaparecidos, è evidente che non c'era alcun intento di offendere. La relazione argentina è stata stra-esagerata. Ma ciò premesso, perché cavolo Berlusconi deve sempre fare il piacione? Perché nel citare i desaparecidos ha dovuto infilare la scenetta dell'aereo, del pallone e della bella giornata? Perché deve essere sempre divertente in tutto quel che dice? Lo so che questo è uno dei segreti del suo successo, ma rimane una cosa sbagliata. È uno strato di superficialità di cui si potrebbe fare a meno. Il ruolo di premier richiede serietà, accortezza, grande misura nella scelta di parole. Così si eviterebbero anche gaffe o pseudo-gaffe involontarie che possono offendere qualcuno molto permaloso. Duccio. Buongiorno, signor direttore. Ho ascoltato molte opinioni negative sulle ronde e sinceramente non riesco a condividerle. Trovo che la sicurezza partecipata sia utile a chi vive in una zona determinata per sentirsi a casa propria e per far rivivere certi luoghi degradati. Sono d'accordo perché la gente in questo modo si avvicinerà alle forze dell'ordine e avrà meno paura di denunciare certi fatti senza bisogno di farsi giustizia da sé. La gente sarà più preparata e coinvolta nel denunciare e nel volere il bene della propria città. Le pongo una domanda. Lei non crede che questo potrebbe incrementare il rapporto di convivenza civile? La mia risposta è sì, perché aumenterà la voglia di educazione civica. Chiaramente è solo un piccolo palliativo. Nessuno pensa che risolverà i problemi. Alessandro, Treviso. Su un vistoso manifesto incollato ad un tabellone di pubbliche affissioni, leggo la seguente scritta a caratteri cubitali. Voucher per fasce deboli. Pur avendo studiato la lingua italiana e masticando mica male anche un poco di francese, inglese, latino e greco, non riesco a decifrare quella dicitura. Dapprima penso alla pubblicità commerciale di un prodotto creato per dare elasticità alle pancere, oppure ai nastri di gomma usati nell'industria. Poi dico, rob the mat. Stai a vedere che ora usano termini presi da quel simpatico ma impronunciabile dialetto bergamasco. Rob the mat. Chissà cos'è quel voucher. Sto scherzando, ovviamente. Ma non del tutto. Perché non mi ritengo un retrogrado e non disdegno affatto i termini stranieri nei testi a carattere tecnico o specialistico per addetti ai lavori. Non sopporto però gli sciocchi saccenti che condiscono con gongolante esterofilia una scodella di brodo che deve essere alla portata di tutti i palati. Così come mi mandano prurito le seguenti parole martellate da politici, giornalisti, salottieri, avventori di bar, devolution, ministro del welfare, premier, social card, back office, eccetera. Ma la bella lingua italiana è forse andata in esilio. Mandatevi dagli italiani che se ne vergognano. Gli altri stati fanno ostruzionismo alle nostre imprese e relative maestranze, esportano in Italia le loro merci, tendono al protezionismo e a volte si fanno pure beffa del nostro popolo. Noi, pavidi e apolidi per scelta, ci vergogniamo della nostra italianità e della nostra identità. Ci divertiamo a beccarci e a criticarci, nonché a biasimare la nostra classe politica perché deve sempre imparare da paesi all'avanguardia. Ospitiamo, giustamente, l'idea della globalizzazione, ma subiamo inerti i vari nazionalismi e mandiamo su Marte il termine italiani. Comunque, riprendendo l'ironica marcia di partenza, mi riprometto di telefonare all'ente pubblico, autore del citato manifesto, per chiarimenti sul voucher. Sperando che dall'altro capo del filo mi rispondano in italiano. Rob the mat. Costante. Caro Costante, ha ragione. Stiamo esagerando con l'uso di termini inglesi o stranieri, soprattutto dove sarebbe non solo più utile, ma anche più chiaro usare i termini italiani. È una battaglia difficile, perché va contro le mode e soprattutto va contro una presunta modernità. e per essere moderni, adeguati ai tempi, magari anche politicamente corretti, appare necessario trovare sempre qualcosa di nuovo e di diverso anche nella lingua, dimenticando che l'italiano, proprio per la sua classicità, è la lingua più bella del mondo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.